Questa è una mostra che è sempre stata organizzata in una maniera esemplare, posso dire, negli ultimi 26 anni, sostenuta dall'Associazione Antiquari Modenesi, e quindi ha una tradizione anche di visitatori che vengono da tutta Italia, anche dall'estero, vengono qui, sanno quello che trovano, non rimangono delusi. E anche gli espositori che vengono dalla Sicilia fino al Piemonte e certi anche dall'estero sanno di poter incontrare un pubblico attento e anche preparato. Quindi è importante in questo periodo in cui ci sono poche cose certe, è importante puntare sia sugli oggetti di qualità, nella pittura, nei mobili, nell'oggettistica, ma soprattutto nelle mostre di qualità come vuole essere Unica Fine Art e Modena Antiquaria. Ecco, la qualità è una delle chiavi, insomma, per resistere anche, diciamo, alle spinte negative. Un'altra chiave invece positiva accanto, insomma, la ricerca quasi ossessiva della qualità, quale potrebbe essere? Beh, non abbiamo alternative, cioè abbiamo nel mondo dell'arte antica, dopo gli anni 90 che sono stati esaltanti e con un'esplosione di prezzi, in certi casi anche immotivata, il mercato si è un po' raffreddato, si è un pochino assestato e adesso si trovano veramente delle cose a dei prezzi anche piuttosto ragionevoli, e l'unica alternativa che abbiamo noi è puntare assolutamente sulla qualità. Il nostro è un piccolo mercato, un mercato veramente di super nicchia, perché proponiamo degli oggetti unici, non c'è produzione, quindi bisogna accostarsi a un mercato serio, un mercato vero, e affidarsi anche a dei professionisti che si comportano seguendo un codice deontologico, dando tutte le possibili garanzie immaginabili. E quindi in questo momento penso che chi compra è quello più privilegiato, più che chi vende. Ecco, premia molto l'acquirente questo tipo di mercato adesso. Parlare di mancato ricambio è un'esagerazione o effettivamente qualcosa di vero c'è? Mi sembra forse più un'esagerazione. Certo è vero che negli ultimi 10 anni gran parte dell'attenzione è stata captata dal mondo dell'arte moderna e contemporanea, è innegabile. Però se vediamo il mondo dell'arte contemporanea adesso, ci sono delle battute di arresto piuttosto forti. Guardiamo Arte Fiera dell'ultima edizione di gennaio, sono passati da 200 espositori a 140, cioè direi che per la mostra di riferimento del contemporaneo in Italia è una bella battuta d'arresto. E poi percepisco dei segnali piuttosto interessanti, cioè coetanei e anche persone giovani che si avvicinano per comprare un dipinto, persone che dopo aver comprato contemporaneo dicono basta, voglio anche qualcosa di antico. Sono due mondi che possono convivere, l'arte è arte, non voglio essere l'antiquario ottuso che dice no, non è arte, assolutamente. Però anche quel mondo dovrà fare un po' di chiarezza su quello che gli acquisti che sono stati positivi, negativi, le esasperazioni, la tendenza, la moda nell'accezione negativa. Noi adesso siamo pronti, direi, per vendere, proporre delle cose che hanno delle quotazioni molto reali, non gonfiate, e quindi penso che alla lunga il mondo dell'arte antica coglierà. Poi è anche abbastanza banale dire che i giovani non comprano antiquariato, non comprano. La pittura antica è l'arte per eccellenza, il collezionista della pittura antica ci sarà sempre, da che mondo è mondo c'è sempre stato, e quindi non scomparirà certo nel 2012.